vita vostra. Benvenuti nella zona rossa. La malavita, la vita mia. La polizia, oh, scappa via. La strada è nostra, riga vostra. Benvenuti nella zona rossa. Non so più che cosa fare, giuro, me ne voglio andare via di qua. Visto il mare della mia città, fra. Ma la vita è questa, faccio i conti con la fame. Non mi resta che partire e salutare lei e basta. I'm sorry baby, anche se non ci credi vedi. I miei occhi piangono, e il mio cuore che è malato. La mia testa ormai è partita, con la droga si è fottuta. Una 9 nel cassetto non vuol dire che ho rispetto, ma mi hai lasciato 12 anni fa. E pa, lo vedevo solo in gabbia con la mia rabbia. Questa è la vita di strada, la vita che scrivo. Questa è la vita di strada, la vita di Nino. Notte, quattro guaglio fanno a botte c'è chiavi. Solo la morte, una 38 puntata alla gola. Passa parola, passa il ferro che lo posso. Lo trovi lì, sotto il sasso, nello stesso posto. La mala vita, la vita mia. La polizia, oh, scappa via. La strada è nostra, mica vostra. Benvenuti nella zona rossa. La mala vita, la vita mia. La polizia, oh, scappa via. La strada è nostra, mica vostra. Benvenuti nella zona rossa. Benvenuti nella zona rossa. Benvenuti nella zona rossa. Benvenuti nella zona rossa. Benvenuti nella zona rossa. Benvenuti nella zona rossa. Nella zona di Malaroy e che io Manesco. Ma la vita è estrema raga, bella fratello, ti aspettiamo presto. Oh, libera l'uomo e mandalo dai suoi. Via manette volanti, via gli antieroi. Da bambini mamma liberava tutti. Da grande se ti lava le mutande sei tra i fottuti. È l'ora di darsela a gambe, non farsela sotto. Rischiarsela in fondo fa sentire vivo in una piccola parte di mondo. Ma tutto a un prezzo, specie la libertà. Poi voglio viaggiare e pago un biglietto illegale del peso di mezzetto. Ma tutto a un prezzo, quantifichi in euro. Ma c'è un lato più nero ed è vero, è del peso di un anno e mezzo. Vuoi sangue vuoi, testi violenti, uomo non sono noi. E nemmeno Malaroy, oi. Vuoi sangue, oi. Dammi un martello, che mi colpisco in testa e muoio sul ritornello. La mala vita, oi, non è la mia. La polizia, oi, scappo via. La strada è nostra, mica vostra. Benvenuti nella zona rossa, oi. La mala vita, non è la mia. La polizia, oi, scappo via. La strada è nostra, mica vostra. Benvenuti nella zona rossa. Non è il momento di levare le tende, no. Sono tornata quando rubavo merende. Sono rimasto quello che si spacca sempre. Sono rimasto onesto con chi per me splende. Metà repentaglio, il futuro per sbaglio. Ma la corda la taglio. Se leggeste tra le righe capireste che chi resta qui poi si perde tra le peggio bestie. Sono parole grosse come grosso il danno che fa stare nascosti e fumarsi un po' di libertà. Parla tutti raga di casa e fuori città, per quelli che vogliono farsi sentire. Qualcosa non va, ma non mi dire. Cosa ti credi che mi debba stupire? Sono qui, mi faccio i miei, che cazzo vorrei capire? Hai tempo da perdere, pure poco da prendere. La mala vita, non è la mia. La polizia, oi, scappo via. La strada è nostra, mica vostra. Benvenuti nella zona rossa, oi. La mala vita, non è la mia. La polizia, oi, scappo via. La strada è nostra, mica vostra. Benvenuti nella zona rossa. Sai chi è Dino? Milone. Quello adesso sta venendo qui. Cinema Kids.